البلاد طردوا الأجداد. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو. قالوا يا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة جاو. Avevamo una casa di pietra bianca nel mio villaggio Lifta, fondato 4000 anni fa dai cananei e conosciuto dai romani come Nifta. Il suo territorio si estendeva fino alla porta di Damasco e alla porta dei fiori sotto le mura di Gerusalemme. Poco lontano mio nonno aveva un oliveto su una collina, oggi chiamata la collina francese, con olivi secolari. Mio nonno conosceva ogni olivo, a ciascuno aveva dato un soprannome. Lì avevamo una seconda casa, dove andavamo d'autunno. Da diversi anni al posto dell'oliveto è sorto un quartiere residenziale per coloni dell'Europa centro-orientale, che non sanno distinguere un fico da un olivo. Alcuni di quegli olivi sono rimasti in piedi come testimoni silenziosi della guerra dei conquistatori. Guerra in nome di Dio, degli imperi, guerre che cambiano nome, ma restano sempre le stesse. Buongiorno Palestina, 153esima trasmissione su Radio Wombat. Ricordiamo in questa trasmissione Ali Rashid, persona cara agli amici e stimata dagli avversari. Dal 1987 fu primo segretario della Delegazione Generale Palestinese in Italia. Militò in Democrazia Proletaria e alle elezioni politiche del 2006 fu eletto deputato con Rifondazione Comunista. A Firenze recentemente aveva curato una serie di eventi dal titolo di One, tenuti presso il Teatro Instabile di Firenze, dove il termine arabo di One, che è entrato nella nostra lingua come divano, sta a significare luogo di incontro e di dialogo. Ali ha sempre alimentato il dialogo, come viene da tutti ricordato, con la sua grande cultura e umanità. Ha lasciato un grande vuoto nella milizia palestinese e in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Questa fortuna è toccata anche a noi di Buongiorno Palestina, che solo un paio di mesi fa lo abbiamo avuto ai nostri microfoni in occasione di un suo intervento al Museo Pecci di Prato, dove anche venerdì scorso gli è stato dedicato un ricordo in un evento intitolato ancora di One, a cui hanno partecipato Francesca Albanese, Omar Suleiman e Micaela Frulli, docente di diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze. Micaela Frulli ha partecipato di recente alla carovana per Gaza. E ancora di dialogo è stato il suo intervento, l'intervento di Ali, che oggi mandiamo in trasmissione. Si tratta del suo intervento in occasione dell'incontro pubblico tra il gruppo ebraico Mai Indifferenti e la comunità palestinese di Milano, svoltosi il 9 maggio presso il Cinema Anteo di Milano. Un ricordo particolare a Rashid è stato dedicato anche alla Casa del Popolo 25 aprile, da parte sia palestinese che da parte ebraica, segnatamente da Enrico Fink, presidente della comunità ebraica di Firenze, in un incontro pubblico che ha suscitato vivo interesse e al seguito del quale lo stesso Fink ci ha concesso una breve intervista che riportiamo. Quanto il tema della Palestina e della strage continua in atto a Gaza trovi solidarietà e indignazione, lo dimostra lo slancio di disponibilità in occasione dell'arrivo dei 22 palestinesi di Gaza, il più piccolo a meno di un anno, arrivati nel fine settimana, che porta a 70 i palestinesi di Gaza accolti a Firenze. L'offerta è stata delle più varie disponibilità, giuntaci anche da molte parti d'Italia e riguardanti non solo soluzioni abitative, ma anche disponibilità professionali, mediche, artistiche, espressione del desiderio di moltissimi di fare qualcosa ed esprimere l'intollerabilità della situazione in Palestina. Chiuderemo questa trasmissione con l'appello di Luisa Borgattini davanti a Montecitorio con la delegazione italiana tornata dal valico di Rafa. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale. Gerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambenami. Buongiorno Palestina, sono Angela. Cominciamo la nostra rassegna stampa con un articolo dal titolo Accordo militare con Israele. Giuristi italiani presentano diffida al governo, pubblicato dal Palestine Chronicle, nel quale si dà risalto alla diffida formale firmata il 21 maggio scorso nei confronti del governo Meloni e sottoscritta da esperti in diritto costituzionale e internazionale, per chiedere l'immediata sospensione del memorandum d'intesa in materia di cooperazione militare e della difesa tra Italia e Israele, la cui tacita proroga è prevista per il prossimo 8 giugno. Fausto Gianelli, noto giurista tra i firmatari della diffida, ha dichiarato che l'iniziativa si fonda sul quadro giuridico internazionale emerso negli ultimi mesi, che ha visto riconosciuta la plausibilità del genocidio nei confronti del popolo palestinese con una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Internazionale, nonché dalle dichiarazioni sempre della Corte internazionale sull'illegalità dell'occupazione israeliana, così come dal mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu e Gallant emesso dalla Corte penale internazionale. Ragion per cui l'applicazione del suddetto memorandum si pone in palese contrasto sia con il diritto internazionale sia con il ripudio della guerra espresso dall'articolo 11 della nostra Costituzione. Pertanto, il rinnovo di questo accordo rappresenta inevitabilmente una conferma del sostegno italiano alla macchina bellica israeliana. Nell'articolo pubblicato su Press TV dal titolo «Gli ideologi israeliani chiedono l'eliminazione dei cittadini di Gaza dai neonati agli anziani» vengono riportate le dichiarazioni aberranti di una colonna israeliana, Rivka Lafer, che vive nell'insediamento illegale di Shiloh, nella Cisgiordania occupata. Questo soggetto fa parte del movimento Yogi Nazi, che fonda pratiche spirituali come lo yoga con l'ideologia nazista. Il gruppo rappresenta una sottocultura molto radicata nei territori occupati da Israele. La Lafer è diventata famosa per aver parlato in pubblico dell'annientamento e dell'espulsione della popolazione di Gaza. Il movimento di cui fa parte fonda idee opposte come spiritualità e genocidio, emancipazione e sfollamento, yoga e fame, così come solitudine e bombardamenti massicci. Nell'articolo pubblicato da Haaretz si riportano le dichiarazioni della Lafer che ha affermato che il genocidio e lo sfollamento forzato degli abitanti di Gaza hanno inizio con un cambiamento della consapevolezza umana. Per aver successo in questo importante cambiamento, ha continuato, dobbiamo riconoscere di avere un nemico, guardarlo negli occhi ed eliminarlo. Non dobbiamo farlo alle loro spalle, dobbiamo avere un contatto diretto con loro che eliminiamo. Sempre per rimanere in argomento, vi segnalo l'articolo dal titolo Piano israeliano per istituire 13 città di coloni in Cisgiordania, pubblicato su Infopal, nel quale sono riportati i dati agghiaccianti sull'aumento della costruzione di nuove colonie in Cisgiordania. Solo nel 2024 sono stati istituiti 60 nuovi avamposti, equivalenti a circa un quinto di tutti gli avamposti istituiti dal 1997 per un totale di 284, secondo un rapporto pubblicato da Zman Israel. Inoltre, nel nuovo piano illustrato dal ministro israeliano per l'edilizia, Isaac Goldknopf, è prevista la costruzione di 13 città di coloni in Cisgiordania nei prossimi 25 anni, nonché la creazione di 5 zone industriali che porterà ad 1 milione di coloni entro il 2050 attraverso la costruzione di 180.000 unità abitative. Veniamo all'ultimo articolo pubblicato su Middle East Eye dal titolo «Secondo un sondaggio, quasi la metà degli israeliani sostiene che l'esercito uccida tutti i palestinesi a Gaza». Secondo un sondaggio della Pennsylvania State University pubblicato dal quotidiano Haaretz, l'82% degli ebrei israeliani sostiene l'espulsione forzata dei palestinesi da Gaza. Quello che colpisce è che il sostegno all'espulsione di massa è stato riscontrato anche tra il 70% dell'opinione pubblica ebraica laica, parte della quale si dichiara progressista, raggiungendo poi il 90% tra le comunità ebraiche tradizionaliste. Il sostegno all'espulsione dei palestinesi, inoltre, viene invocato dal 56% degli ebrei israeliani nei confronti dei cittadini palestinesi che vivono in Israele. Un altro sondaggio mostra come il 44% dell'opinione pubblica israeliana sostenga l'operazione Carri di Gedeone, attualmente in atto, e che Israele non debba consentire l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza, così come è stato espresso dal 53% degli israeliani. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio. تراب اليوم نسقي بدموعه ودمي شهيد دمي شهيد فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلا من بحر النهر يا ما قلنا بكرة أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير حتى نحكي لا ممنوع سجن حدود وسجن بتعبير وذنبه يا طفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين باللي صاير فينا على ترابك ما تخلينا ودم الشهيد فداك يا وطني تبلينا وراح اللي بوزينا وشكو اللي بينا والله ما توحش ناس اللي جوتني كل يوم بحكوا لي صبر سلاحي واخر صبر الموت والكل شايف بس لا مش فارق صوتي Trasmettiamo ora la registrazione dell'ultimo intervento di Ali Rashid, fatto in occasione dell'incontro pubblico tra il gruppo ebraico Mai Indifferenti, Laboratorio Ebraico Antirazzista e la comunità palestinese di Milano. Incontro svoltosi il 9 maggio presso il Cinema Anteo di Milano. Si è trattato di un evento con partecipazioni di primo piano italiane, israeliane e palestinesi. Conviene però citare che nella stessa giornata del 9 maggio a Gerusalemme si è svolta una Conferenza Popolare per la Pace, da parte della coalizione It's Time, un fronte di 50 organizzazioni israeliane in risposta all'attacco che viene portato in Israele contro tutte le organizzazioni considerate di sinistra. È una conferenza che è stata in parte presentata in streaming su un schermo presso la Sinagoga di Firenze. Nel blog di questa trasmissione troverete il link di riferimento sia all'evento di Gerusalemme che alla registrazione dell'Anteo, da cui sono rilevabili le notevoli differenze tra i due eventi nel percepire la situazione in Israele. Ecco dunque ora l'intervento di Ali Rashid all'Anteo. Allora, chiamerei qua Ali Rashid, che molti di voi conosceranno, è stato parlamentare di Rifondazione Comunista, ma soprattutto impegnato per anni nei movimenti per la pace, nato da genitori palestinesi in Giordania. Eccoci qua, Ali Rashid, un applauso, grazie. Chiamo sul palco anche Noga Kadman, eccola qua, che è israeliana ed è una ricercatrice nel campo dei diritti umani del conflitto israelo-palestinese, vive a Milano, è autrice del libro Cancellati dallo spazio e dalla coscienza, Israele e i villaggi palestinesi spopolati dal 1948, anche questa data ci dice che in realtà quello che noi abbiamo visto qua è una storia molto che va molto indietro nel tempo. E poi Najat Al-Arabi, che è medico all'Istituto Clinico Sant'Anna di Brescia ed è membro dell'Associazione Sanitari per Gaza. Grazie di essere qua con noi. Allora, volevo partire da Rashid. Le due clip che abbiamo visto sono molto belle, perché da una parte parlano di accoglienza, nel senso che il giornalista israeliano viene accolto nelle case dei palestinesi, e anche di profonda resistenza e attaccamento alla propria terra. Tutto viene distrutto e la notte si ricostruisce. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie alle nostre amiche e compagne che hanno organizzato questo incontro, e dove l'obiettivo principale, secondo me, sta nella domanda. Non, come ha detto Eva, non proporre soluzioni, perché forse questa non è la sede, ma l'aspetto più importante è quello che hai definito tu, guardando il film, l'accoglienza. Ma l'accoglienza richiede anche un gesto dall'altra parte, avvicinarsi, l'approssimazione dall'altra parte, e dove a un certo punto, e credo che sia questo anche il momento, il punto più difficile da spiegare, che questo è il punto più difficile, è l'incontro, l'accoglienza, prendersi cura. Io non ho la voce forte, sì. L'incontro, l'accoglienza, prendersi cura dell'altro e cercare di conoscere l'altro, e credo che questo sia l'aspetto più importante dell'incontro di questa sera. E dove a un certo punto questo gesto, come lo chiama il professor Cacciari, approssimarsi all'altro, non è una definizione di Stato, ma è un'azione, esprime una volontà. È questo che è venuto a mancare in tutti gli anni precedenti. Non c'era una volontà vera di conoscere l'altro, e sembra che siamo separati in modo irreversibile. E invece il film o il video che abbiamo visto dimostra che ci sono molti altri, l'altro da me, e lì non c'è soltanto una linea esterna che mi separa dall'altro, ma spesso, come stiamo provando in questo momento, c'è una linea interna che passa dentro di noi per incontrare l'altro. E questo porta a un altro momento successivo importantissimo, è quello di cercare l'altro che è in noi, che non sono semplicemente il nemico di Israele o il nemico degli ebrei, ma io condivido con loro moltissime cose. E poi quando la discussione si alza a questa altitudine o a questa profondità, e troviamo che ci sono mille cose comuni che ci accomunano e ci uniscono. Certo, noi conosciamo la storia, la nostra storia, conosciamo bene l'ingiustizia che abbiamo subito. Non abbiamo nessuna intenzione, costi quello che costi, di rinunciare ai nostri diritti. Continueremo la nostra lotta. Sappiamo che fino adesso ci è costato moltissimo. Però quando io mi rivolgo all'altro, che in molti aspetti è me stesso, che rappresenta per me una cosa importante, irrinunciabile, fondamentale, e questo mi dà forza, mi dà speranza, e quando la situazione diventa più tragica, la speranza diventa un obbligo morale per non cadere, per non scivolare nelle vie che sembrano più brevi, nelle scorciatoie. Situazione di questa complessità richiede molta attenzione tra le parti, e noi sappiamo che in questa situazione non c'è futuro per tutti, per nessuno. Ma è il futuro, è una questione che riguarda la coscienza, e creare il futuro richiede l'utilizzo di quella sostanza incorruttibile che è la coscienza. E io sono convinto che noi oggi abbiamo fatto un passo molto avanti. Forse la soluzione non sarà nemmeno nessuna di quella che è stata discussa fino ad oggi in questi anni. Ma l'importante è l'atteggiamento verso l'altro, è quella che crea problemi. E se noi diamo un'occhiata al passato della nostra regione, della nostra Palestina, forse troviamo che la soluzione sta nel passato e non in quello che hanno proposto e in quello che si sta facendo in questi giorni. Cadere nella trappola del nazionalismo è un'avventura senza ritorno, soprattutto in una terra come la Palestina, come la grande Siria, dove c'è un mosaico di etnie, di religioni che hanno convissuto nel bene e nel male sempre insieme, e chiedere alla regione, chiedere ai palestinesi di sopportare anche il peso della storia europea, secondo me è una cosa ingiusta, perché la discriminazione, la persecuzione, l'olocausto, tutte queste pagine terribili della storia non riguardano i palestinesi non hanno avuto nulla a che fare con esso. Ogni tanto permettiamoci di anche fermarci un po', un istante. Il filosofo o il mistico andalusso Ibn Arabi diceva che il tempo non è una linea continua, ma è un insieme di punti, uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. E quindi c'è la fine delle cose, non nel momento, ma c'è anche un inizio, E sicuramente questo è un inizio importante, importante per i palestinesi, ma se mi permettete è importante anche per gli ebrei che vengono in modo collettivo, in modo giudicati per quello che sta facendo l'estrema destra ebraica. Un altro punto e termino. Parlavo dell'altro che è in noi, null'altro che fuori di noi. E a me piace ricordare sempre questa frase di Karl Marx, che nell'uomo c'è il sogno di una cosa, e io sono sicuro, sono stato a casa tua, Renata, che questo sogno è comune. E quindi cerchiamo di sognare, ma nello stesso tempo fare questo gesto di approssimazione dalle due parti, perché l'approssimazione è dalle due parti. Io ti cerco e tu mi cerchi e alla fine troviamo una soluzione. Si è svolto alla Casa del Popolo 25 aprile l'incontro tra il presidente della comunità ebraica Enrico Fink e Izzedine Elzir, imam di Firenze e presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. Titolo dell'incontro era Insieme nella diversità, dialoghi tra fedi e culture. Moderatore Eros Crocolini. Come abbiamo già espresso nell'introduzione, l'incontro ha destato un vivo interesse e notevole partecipazione di pubblico ed è stata anche l'occasione per ricordare Ali Rashid, che ha sempre privilegiato il dialogo tra le due culture. Al termine dell'incontro Enrico Fink ci ha concesso questa intervista. Buongiorno Palestina, su Radio Wombat, sono Claudio. Il 20 maggio scorso, con il titolo Insieme nelle diversità, si è svolto alla Casa del Popolo del 5 aprile di Firenze un incontro a cui hanno partecipato Izzedine Elzir, imam di Firenze, e Enrico Fink, presidente della comunità ebraica. Questo seguendo una pratica di confronto che qui a Firenze si è andata svolgendo negli anni e spesso con contrapposizioni aspre ma in fondo sincere. Dunque si è trattato di un incontro pubblico seguito con interesse e secondo le impressioni raccolte dopo questo incontro l'interesse soprattutto di capire di che cosa si parla e che cosa si sta muovendo all'interno dei rispettivi campi. Enrico Fink, presidente della comunità ebraica, ha accettato di rispondere a un paio di domande che ripercorrono i temi che hanno suscitato questo tipo di interesse. Allora, buongiorno presidente. La prima domanda è un po' intrusiva, diciamo, riguarda il dibattito al vostro interno, e cioè in parte significativa del mondo ebraico e della intellettualità ebraica, è in rivolta oggi nei confronti di Israele, del suo governo soprattutto, e adesso anche in Italia, con iniziative dichiaratamente dissenzienti come quella del gruppo Mai Indifferenti, di Laboratorio Ebraico Antirazzista, di Tikkun, eccetera. Ecco, allora quello che chiedo, qual è il dibattito all'interno della comunità ebraica? È quello che un po' tutti, almeno quelli a cui sono vicino, si chiedono. Dico, ma nelle comunità ebraiche di che cosa si parla? Tenendo conto che se adesso mi viene in mente una rubrica di un giornale online americano che è Forward, che è di fatto l'organo di J Street, nel quale questa rubrica si chiama Di che cosa parlano gli ebrei americani oggi? Ecco, chiedo a Sint di che cosa parlano gli ebrei nelle comunità ebraiche italiane oggi? Ecco, e in qualche modo la domanda contiene già la risposta, perché si sono rese molto evidenti in questo periodo, prese di posizione, dibattiti che intorno, in particolare, stiamo parlando veramente del conflitto, della guerra che da ormai troppi mesi, dal 7 ottobre del 2023, insangue nel Medio Oriente e angoscia l'intero. Chiaramente il dibattito è molto forte e la discussione interna è molto, molto accesa. Lo si vede appunto da prese di posizione di associazioni, gruppi che si rifanno al mondo ebraico, che nascono all'interno del mondo ebraico, di tipo molto diverso fra di loro. Quello che non ci si deve aspettare, io questo cerco sempre di spiegarlo, dalle comunità ebraiche italiane in quanto comunità ebraiche, è che ci siano delle prese di posizione pubbliche, politiche. Nelle comunità ebraiche italiane, questo è molto difficile in altri paesi, è un po' un unicum italiano quasi, sono comunità che sono delle sorte di contenitori di cui fanno parte e hanno pari dignità e diritto di parola tutti quanti, indipendentemente dalle opinioni politiche. Gli stessi quadri eletti non sono eletti in base a elezioni politiche, siamo, io per primo, sorta di portavoce o degli amministratori che in qualche modo hanno anche la responsabilità di rappresentare la totalità, con la difficoltà che tutto questo comporta, di una comunità che è molto variegata al suo interno. Io dico sempre, se si vuole pensare come la pensano gli ebrei, in realtà in qualunque luogo, non soltanto in Italia, ma in particolare in Italia, basta prendere come la pensano gli abitanti di quella città, ecco, fatte le dovute proporzioni, troveremo quella che è più o meno le opinioni che girano all'interno delle comunità ebraiche. Sì, vado anche più in profondità e dico, sì. Quindi voglio dire, dato questo, per cui le comunità ebraiche sono fatte da persone di destra, di sinistra, e noi qua abbiamo spesso la necessità di rappresentare la voce di tutti e di far sentire tutti equamente degni all'interno. Detto questo, e quindi la difficoltà di vedere grandi proclami politici contro un governo o a favore del governo italiano, che sia il governo in Italia o sia il governo israele o il governo. Detto questo, la guerra è argomento di non solo di dibattito, ma di, io penso, mi sento di dirlo, di angoscia e di sofferenza per la sostanziale totalità degli ebrei italiani. Lo è per credo in gran parte per gli italiani in generale, ma in particolare se c'è una specificità ebraica è proprio che tutti quanti abbiamo un'attenzione molto molto forte per quello che succede in Medio Oriente, per quello che succede in Israele, sia per magari motivi storici che familiari, per contatti, per affetti, per cui che ideali ovviamente, per cui se c'è una particolarità è sicuramente essere molto attenti a quello che succede e in grande sofferenza per la guerra. Io questo lo voglio dire con schiettezza, c'è forse anche un po' di autocritica da fare. Nel senso che spesso siamo stati preoccupati di essere troppo tirati in ballo. Il motivo è che gli ebrei italiani in particolare hanno sempre tenuto a dire: noi non siamo rappresentati nello Stato di Israele, noi non siamo israeliani, qualcuno di noi lo è, ma non lo sa, e quindi in qualche modo non vogliamo dare adito a confusioni. E tante volte a me è capitato di trovarmi in condizione di dire non sono io l'interlocutore se si deve parlare del Medio Oriente, ma è chi rappresenta lo Stato di Israele. Però per questa giusta preoccupazione che anch'io ho avuto e che capisco, forse abbiamo rischiato, rischiamo a volte di trascurare, di mostrare quello che è il sincero dialogo che c'è al nostro interno, il dissenso che da noi è normale, la discussione che c'è molto molto accesa, con posizioni molto molto accese che vanno in direzioni diverse, e in maniera molto generale un'angoscia profonda per la guerra, per le sue vittime che sono state e sono in Israele, ma sono anche chiaramente, evidentemente sotto gli occhi di tutti, fra i civili di Gaza, la cui sorte ci addolora in maniera profonda, e questo mi sento di dirlo come rappresentante della comunità ebraica fiorentina. La guerra è, per usare le parole famose, la guerra è uno scandalo, la guerra è un'ignominia, e quindi su questo penso che la nostra la posizione sia comune. Poi su ragioni, aspettative e sviluppi della guerra possiamo avere opinioni diverse al nostro interno, come si hanno all'interno di questo paese, ma l'odio per la guerra e l'amore per la pace è piuttosto diffuso anche fra di noi. Ecco, il fatto che vi sia una pluralità politica organizzativa anche in Italia oggi fa sì che non si possa parlare degli ebrei come un tutt'uno, e questo allontana anche i sospetti di antisemitismo. Ma però le comunità ebraiche però hanno un significato anche numerico. E anche se non sono, in Italia ci sono dai 20 ai 30 mila ebrei, quindi sono abbastanza pochi rispetto ai 500 mila della Francia, no? La percezione diffusa è che Israele pretenda troppo dalle comunità ebraiche. Di fatto il suo sostegno viene in gran parte dalle comunità ebraiche, oltre che poi dalle armi americane che le vengono concesse senza remore. Allora, una delle cose che vengono richieste da parte di autorevoli autori, almeno vedo, è avrebbe senso invece di portare il centro dell'ebraismo all'interno della diaspora e non nello Stato di Israele. Ecco, che cosa pensa lei a questo proposito? Al di là appunto del presupposto della domanda, che secondo me io francamente non condivido fino a un certo punto, cioè credo che Israele dipenda molto dal rapporto che ha con i suoi alleati a livello internazionale. Sicuramente quella che copertura da parte di comunità ebraiche, io uno non la vedo, due non credo che sia assolutamente come dire nella lista di priorità di questo governo specifico, ma in generale della situazione dei governi di Israele da quando li conosco. Intanto non esistono, ripeto, le comunità ebraiche se non in Italia, e l'Italia è, o se non in Italia in alcuni altri luoghi, ma non così come sono fatte in Italia, e in Italia siamo il nulla dal punto di vista del numerico e anche dell'importanza strategico-politica internazionale all'interno dell'ebraismo italiano, dell'ebraismo europeo, dell'ebraismo mondiale, chiedo scusa. Siamo spesso addirittura appunto ignorati, spesso sia negli Stati Uniti che in Israele, a volte si ignora addirittura della nostra esistenza come ebrei italiani, quindi figuriamoci se è necessaria la nostra copertura. E ripeto, altrove le comunità sono organismi molto più omogenei, sono gruppi organizzati in realtà con meccanismi molto più omogenei politicamente, socialmente, culturalmente, quindi prendono spesso posizione, ce ne sono tante che sostengono il governo di Israele, tante che non lo sostengono, guardate gli Stati Uniti dove la dicotomia è molto evidente, molto forte, per cui io francamente questo non vedo e ribadisco che quello che dicevo anche all'incontro, davvero spesso si sopravvaluta, immagino per un errore in buona fede, ma assicuro la possibilità di incidere che ha l'ebraismo della diaspora in generale, ma quello italiano in particolare nei confronti delle scelte di Israele è veramente pari a nulla. La possibilità di avere qualche ruolo in questo. Detto questo, il rapporto con la domanda più vasta, riportare il centro dell'ebraismo nella diaspora e non nello Stato. Intanto l'ebraismo per sua natura è multicentrico e molto poco, non c'è qualcuno che possa riportarlo da qualche parte il suo centro, se esiste un centro. Esistono luoghi, spazi e occasioni che hanno un'autorevolezza particolare, ma questo dipende dalla fase storica, da mille fattori ed è qualcosa di molto liquido. La grande importanza che ha Israele, il grande ruolo che ha Israele nei confronti dell'ebraismo e della diaspora è un tema importante. Spesso, lo dicevo prima, noi abbiamo teso a distinguerci, a dire noi non siamo Israele, a spiegare la differenza, perché per molti sicuramente non gli ascoltatori di questo programma, ma per tanti che nell'opinione pubblica italiana, nello specifico, la confusione è grande tra cosa voglio dire essere ebreo e israeliano. Noi questa attenzione l'abbiamo sempre avuta, da sempre. Forse dovremmo anche porre l'attenzione a spiegare perché siamo noi ebrei che non siamo israeliani, che non rappresentiamo Israele, che non votiamo Israele e la cui opinione, ripeto, non è tenuta nei minimi conti in Israele, perché abbiamo un affetto così forte, perché attribuiamo un'importanza così grande a Israele. E questo spesso è qualcosa su cui dovremmo spiegarci di più. E forse anche aiuterebbe a capire quello che per me è una delle grandi questioni che ultimamente tendono a separarci delle separazioni fra il movimento pacifista e il mondo di tanti ebrei italiani che si sentono mandati fuori da questo mondo. E il motivo sta non in una poca amore per la pace, in particolare per la pace fra Israele e Palestina, ma nel fatto che se è vero, e su questo io lo dicevo all'incontro con molta chiarezza, se è vero che è chiaro che la stragrande maggioranza degli stati riconoscono l'importanza e la necessità della sicurezza di Israele e dei diritti di Israele, gli stati, i governi che oggi ci sono nel mondo, e invece hanno meno a cuore su questo sono disponibilissimo ad ammetterlo e lo vedo, è un dato di fatto, ma molto meno a cuore l'autodeterminazione, il benessere, la condizione del mondo palestinese. È vero che nell'opinione pubblica, in particolare nell'opinione pubblica del Movimento Pacifista Internazionale e in particolare in Italia, è vero esattamente l'opposto. Si riconosce il diritto all'autodeterminazione palestinese che è un valore e che io riconosco e credo che noi anche da parte vicina a Israele dobbiamo in generale propagandare e riconoscere, perché riconoscere l'ispirazione dell'altro è fondamentale, ma in questo mondo viene assolutamente non riconosciuto un analogo diritto, ragione dell'esistenza di Israele come elemento di autodeterminazione di un popolo. Israele viene visto, e questo per me è un vulnus, viene visto come un male di per sé, un errore della storia, un avamposto del colonialismo e dell'imperialismo. Questo è un errore storico e qualcosa che ferisce non solo gli israeliani, ma ferisce gli ebrei ovunque. Io quello che vado continuamente propagandando è di costruire insieme, noi che stiamo dialogando come stiamo dialogando in questo momento, come abbiamo dialogato alla Casa del 25 aprile pochi giorni fa, costruire un presupposto che è difficile, mi rendo conto, è difficile abbandonare posizioni molto radicate, ma cercare in nome della pace, in nome della cessazione del sangue, in nome di un futuro che deve essere, che deve passare per il riconoscimento gli uni degli altri, noi che viviamo lontani dal conflitto, cerchiamo di riconoscere gli uni le ragioni i diritti, le sofferenze e le aspirazioni degli altri. Cerchiamo di lavorare in tutti e due i campi perché si comprendano le ragioni degli altri. Allora, questo perché ho fatto questo lungo discorso? Per dire che Israele rappresenta per gli ebrei italiani un elemento di speranza, di luce, di grande valore. Per gli ebrei italiani che sono di sinistra in questo momento hanno una grande sofferenza per la presenza in Israele di un governo di fortemente di destra. Questo è un dato di fatto. Ma ciò non toglie nella grande maggioranza degli ebrei italiani un grande rispetto e affetto per quel paese, che non vuol dire che quel paese sia il centro dell'ebraismo, minimamente, questo non è così, ma che si rifugga da quelle posizioni che tendono a negarne non dico il diritto all'esistenza, ma il valore le ragioni dell'esistenza. Io su questo continuerò a lottare, per quanto sia una lotta che mi rendo conto essere complicata, ma credo che il nostro ruolo sia quello, un piccolo passo, ma di aiutarsi a comprendere le ragioni dell'altro. Credo che sia importante per un futuro di pace. Ecco, lei in questo ultimo tratto ha citato diversi aspetti su cui sarebbe molto interessante ritornare, e proprio a questo punto le faccio un po' l'ultima domanda, per l'appunto: che seguito si può dare all'iniziativa della Casa del Popolo 25 aprile, cioè che modi e contenuti? Eros Cruccolini, che ha moderato l'evento allora, proponeva un documento, altre iniziative sono possibili, lei che cosa pensa? A proposito, penso che sia fondamentale andare avanti, è fondamentale, è giusto quello che Eros citava, ricordare l'iniziativa già di Balducci ormai più di 40 anni fa sul rendere Firenze città operatrice di pace. Firenze ha una lunga storia da questo punto di vista, dalla Pira appunto, passando per Balducci, passando per una città in cui comunità ebraica e islamica hanno un rapporto più sereno che altrove, che nasce non soltanto dai quadri dirigenti, ma anche dalle attività degli iscritti, delle singole persone. Qui io vorrei che facessimo tutti uno sforzo per favorire questo incontro. È una piccola cosa rispetto a quello che i potenti decidono in altre sedi, mi rendo conto, e spesso vorremmo poter incidere direttamente su quello che viene deciso nelle stanze dei bozzoni, ma io temo che abbiamo molta poca possibilità di arrivare là. Credo che invece possiamo fare molto, proprio non soltanto ebrei e musulmani, quindi non soltanto persone legate per storia a Israele o al mondo di Palestina, ma anche persone che hanno a cuore il benessere dei popoli in quel luogo, che hanno a cuore l'autodeterminazione dei popoli, che hanno a cuore la pace. Possiamo fare tanto per costruire, non un riconoscersi e diventare improvvisamente tutti d'accordo. Le differenze le avremo sempre, avremo differenze di impostazione, di storia, crederemo cose diverse, ma trovare le parole di un confronto, le parole di un dialogo, le parole di un riconoscimento. Questo sembra poca cosa, ma non è per niente poca cosa. Se non riusciamo noi a fare questo passo, che è il prodromo, lo diceva Grossman proprio ieri, è uscito in un articolo oggi su Repubblica, la pace forse è ancora lontana, ma intanto cominciamo a ricominciare a parlarsi. E allora in questo ricominciare a parlarsi, che è il primo passo è qualcosa che noi qui anche da Firenze possiamo fare, e io ci credo fortemente che dobbiamo lavorare in questo senso. È a volte difficile per le opinioni che abbiamo, le emozioni che abbiamo, la passione che abbiamo, ma lo possiamo fare, possiamo riconoscerci, trovare terreni comuni di umanità su cui dialogare, su cui parlare, su cui confrontarci, magari discutere, ma trovare terreno comune. È vero che quanto lei ha detto in precedenza, che siamo una piccola realtà, però Firenze ha un grande nome. Ecco, questo cerchiamo di giocarcelo bene, e su questo possiamo essere d'accordo. Quindi la situazione è tale per cui occorrerebbe fare passi da gigante, invece noi cerchiamo di fare piccoli passi, però intanto facciamo. Grazie Presidente. Grazie. E con questo grazie. Ha. حبيت القمر طلع القمر اصطناعي شميت الورد طلع الورد بلاستيكي انا حبيت القمر طلع القمر اصطناعي شميت الورد طلع الورد بلاستيكي تكاتيكي تكاتكاتيكي Serata dedicata ad Ali Rashid al Museo Pecci di Prato, mandiamo in onda parte degli interventi della serata. Omar Suleiman, attivista palestinese, ha letto una poesia di Tawfiq Ziad dopo l'intervento di Francesca Albanese e raccontato un episodio della vita di Ghassan Kanafani che adesso vi facciamo ascoltare. C'è un bellissimo racconto di Ghassan Kanafani, lo scrittore palestinese ucciso nel 72 a 33 anni in una macchina imbottita di esplosivo, lui la nipotina di 10 anni che accompagnava a scuola. Quel romanzo si chiama, ed è bellissimo, si chiama Torno a Haifa. È scritto nel 78, solo un anno dopo l'occupazione totale della Palestina, dopo la guerra, cosiddetta guerra di sei giorni. Parla di un signore, si chiama Said, con sua moglie, che dopo la guerra di sei giorni, nel 67, le frontiere vengono aperte, non c'è più la linea verde, e quindi i palestinesi che sono stati cacciati nel 48, 20 anni prima, che sono rifugiati in Cisgiordania, riuscivano a tornare in Galilea, Haifa, Jaffa, Jaffa, a vedere le loro case abitate da famiglie di ebrei. Said invece rimane un anno a decidere se andare o no. Quindi un giorno a cena dice alla moglie, andiamo. Prendono la macchina e cominciano a fare questa strada di curve bellissime che sovrastano la Galilea, gli aranceti, i limoneti, gli agrumeti. Tutti loro due assorti nel pensiero che cosa facciamo una volta arriviamo lì. Alla fine arrivano, ad occhi chiusi salgono le scale, suonano il campanello che conoscono a memoria, sentono dei passi di una signora anziana perché erano molto lenti, la signora gli apre la porta e dice benvenuti, entrate, vi aspettavo da tanto. Loro entrano in casa e continuano a guardare la foto della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme ancora appesa dove era. Il divano con il tavolino con le penne dei pavoni stavano ancora nel vassoio sul tavolino. E i piatti riposati, i tazzi di tè che la donna, la moglie aveva lasciato nella credenza stavano ancora lì. Quindi cominciano a guardarsi intorno e lei dice che cosa siete venuti a fare? Io vi aspettavo la vostra... Lui dice siamo venuti, questa è casa nostra. Questo divano l'ha messo mia moglie, queste penne, le penne di pavone l'ha sistemata lei, questo quadro che ho messo io il chiodo, questa è casa mia. Lei era una donna ebrea di Varsavia, il fratello morto nell'olocausto, e quindi c'è questo dialogo tra loro, Said e la moglie, e questa donna ebrea, si siedono solo di fronte all'altro e parlano. E quindi quell'atto di Ghassan Kanafani, il primo e il più coraggioso nel mondo arabo e nel mondo palestinese, di dialogo tra un palestinese e un'ebrea. Loro l'ascoltavano, si commuovevano quando lei parlava del fratello inseguito dai nazisti per le strade di Varsavia, quindi viene sparato e ucciso. A un certo punto si bussa alla porta, entra un soldato. Quel soldato non è altro che Khaldun, il figlio di Said. E quando sono stati cacciati dal 48, nel 15 maggio del 48, c'era la calca di persone spinte dalle bande di terroristi ebrei verso il porto da Haifa. Arrivano al porto, stava spesso sul barcone e la moglie dice: Khaldun. Lui ha cercato di tornare indietro per prendere il figlio che stava ancora nella culla. Non c'è riuscito perché era spinto dai fucili e dagli armi delle bande armate israeliane. Quindi c'è questo dialogo molto duro tra il figlio, che oggi è soldato israeliano, figlia della signora Mariam polacca, e il padre che gli dice: ma io te ho generato, te ho dimenticato qui. E il figlio le dice: io al posto tuo avrei lottato con le unghie per prendere mio figlio. Adesso che sei venuto a fare? Sono cresciuto e milito nell'esercito che ti può uccidere uscendo di qua. Sai, prende la moglie per mano e escono fuori, uscendo fuori, sai, dice alla moglie: Safia, ma che cosa è la patria? Cosa è la Palestina? Sono questi pochi ricordi. Quando è morto Ali, ho pensato tanto a questa storia. Per noi oggi la Palestina, per Ali era il suo villaggio, che è riuscito una o due volte ad andare a visitare, e ancora che insomma case abbandonate sulla collina intorno vicino a Gerusalemme. Per me la Palestina è quel ruscello nel mio piccolo villaggio, quella scuola dove ho studiato fino alla sesta elementare, sono miei parenti, mia madre e mio padre svolti lì. La voglia di riuscire a tornare lì a giocare ancora con fogli di fico d'in che tagliavamo, costruivamo le macchine tirando con il cavo. Per me la Palestina è questa. Per me la Palestina è giustizia, come lo era per Ali. Io sono tantissimi anni, Ali più di me, che viviamo qui ormai, i nostri figli, le nostre radici, i nostri amici sono qui, il nostro lavoro. La Palestina per me oggi è giustizia per la mia gente. Erano passati tanti anni che non vedevo Ali, sapevo che non stava bene. E un mese fa, credo, Patrizio, ci siamo visti a una bellissima cena, abbiamo passato una serata, avevo visto sporadicamente a Napoli, ero venuto all'evento Life for Gaza che abbiamo fatto a Napoli, ci siamo visti, abbiamo chiacchierato, però quella serata non immaginavo fosse l'ultima. Avrei passato anche la giornata dopo, altre due giornate. E Ali, l'esempio, uno di pochi palestinesi, una persona dolce, amabile, sorridente, ma che riesce a convincere, a parlare con la forza della giustizia che ha all'interno delle sue convinzioni. Ali, naturalmente, fisicamente non c'è, ma rimane per tanti palestinesi qui in Italia, ma anche fuori della Palestina, come guida. E mi dispiace contraddirlo, noi non moriremo, sicuramente no. Continueremo a vivere e a lottare per i nostri diritti e per la giustizia. الشرارة أحييكم بحرارة. كل نساء النضال من الجنوب للشمال أنتن روح القتال شامخات كالجبال إنكن حاملات الأجيال قاومنا وقت النزال لا تقبلنا بالإذلال بل أنرنا درب النضال وكونوا أنتم الشرارة وثوروا كاتشي جيفارا Contiamo anche Micaela Frulli, docente di diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze, che ha fatto parte della delegazione della recente carovana per Rafa, che ci ha parlato della sua esperienza e espresso le sue considerazioni sulle violazioni del governo israeliano. A dirlo, penso che ci sarà poi qualcosa anche di speciale dedicato a lui, però è veramente una grande emozione essere qui anche insieme a lui. Poi voglio dire a Omar, prima di dire due cose sulla carovana, che l'Italia è con la Palestina, l'Italia quella vera, io dico, perché come diceva la signora Dell'Ampia all'inizio, io vado in questi ultimi due anni a parlare ovunque e c'è sempre tantissima gente che sa benissimo che il diritto è dalla parte della Palestina, ma diciamo le parole anche su questo, che non sono i nostri politici che rappresentano la posizione dell'Italia, quella vera. La carovana, come è? Anzitutto mi piace dare il merito a chi l'ha organizzata, è stata una carovana composta da moltissime persone, circa 50-60 persone, organizzata dalla società civile, ci tengo a dirlo, perché chi l'ha organizzata sono AOI, Arci Nazionale, Assofacce Palestina, le principali, ma c'erano appunto decine di organizzazioni che hanno collaborato all'organizzazione ed era composta, oltre che dagli esponenti della società civile, da 15 parlamentari europarlamentari italiani, un bel gruppo di giornalisti e poi eravamo in 3 giuristi con il compito un po' di illustrare agli altri nel dettaglio la situazione dal punto di vista giuridico e di fare appunto formazione in qualche modo e anche una documentazione delle violazioni perpetrate da Israele a Gaza e non solo a Gaza. Abbiamo chiesto il permesso, siamo andati prima al Cairo dove abbiamo incontrato moltissimi sopravvissuti al genocidio, quindi moltissime persone fuoriuscite da Gaza che ci hanno raccontato le loro storie, che diciamo sono quelle che chi di noi segue soprattutto attraverso i social, perché non abbiamo ahimè tante altre fonti, Al Jazeera copre un po', però è molto difficile, come sappiamo i giornalisti internazionali non entrano a casa, ci hanno raccontato quello che purtroppo è il massacro quotidiano. Abbiamo parlato con giornalisti come diceva già Francesco Danese, ci hanno raccontato di essere un obiettivo, di essere stati un obiettivo. Nei primi giorni, subito dopo il 7 ottobre 2023, una delle prime operazioni mirate ha colpito un palazzo dove c'erano 5 associazioni di giornalisti e testate giornalistiche, quindi diciamo loro sono un target, tanto che ormai Francesco diceva 211, ma in realtà ormai il conto supera i 220 giornalisti uccisi. Ci hanno detto che loro, nonostante questo, vogliono continuare a testimoniare e lo fanno con quello che hanno, e chiaramente la sicurezza è bassissima, perché anche quello che noi vediamo, no? Il giubbotto con scritto press, l'elmetto, è tutto fatto in casa. Loro ci hanno detto il giubbotto è di spugna in realtà, cioè non ci abbiamo niente, quindi ovviamente senza nessuna protezione, ma nonostante questo non hanno nessuna intenzione di smettere, continueranno a farlo. Abbiamo incontrato operatori umanitari, Gazawi, medici che sono fuoriusciti e ci hanno raccontato che anche loro sono un target, sono stati un obiettivo. Ci hanno raccontato anche qui quello che anche rapporti di inchieste indipendenti ci hanno detto, oltre a quello che abbiamo visto, tutti gli ospedali, tutte le strutture sanitarie sono state colpite, bombardate, quindi sostanzialmente non c'è più possibilità di avere una struttura funzionante, una struttura vera e propria che possa chiamarsi struttura sanitaria degna di questo nome. Abbiamo parlato con anche anche con persone che sono fuoriuscite con grandissime difficoltà, ad esempio con persone che sono rimaste ferite, le abbiamo saputo, le abbiamo visto, amputate, disabili, che hanno appunto una situazione difficilissima. Abbiamo visitato un centro scolastico, i palestinesi che sono in Egitto adesso non hanno la cittadinanza, ovviamente hanno uno status, alcuni hanno chiesto lo status di rifugiato, ma hanno uno status indefinito che non consente loro, ai ragazzi non possono andare a scuola e gli adulti non possono lavorare, quindi chi riesce a lavorare con la cooperazione internazionale ha, diciamo, un lavoro e uno stipendio degno di questo nome, gli altri purtroppo lavorano a nero e quindi hanno una situazione molto difficile anche in Egitto. I bambini non possono andare a scuola, quindi alcune organizzazioni hanno creato questi centri culturali, loro li chiamano così, in realtà sono delle scuole vere e proprie, quindi abbiamo visitato queste scuole ed è stato forse il momento più bello da questo punto di vista della visita, perché vedere i bambini, i ragazzi che invece ricominciano, cercano di elaborare quello che hanno passato, perché sono tutti fuoriusciti da casa, quello che hanno vissuto, e mi ha colpito tantissimo una ragazzina che trovava sollievo nel fare questi collage, quindi aveva questo quaderno pieno di collage, di giornali, di immagini con la natura, quindi per lei la consolazione era riuscire a fare queste sue elaborazioni artistiche, si diceva il ruolo dell'arte, no? Anche lo psicologo ci diceva che è molto importante per loro tirare fuori nella forma in cui riescono, no? Nella forma in cui riescono provare a elaborare quello che hanno vissuto. Poi avevamo chiesto di entrare ovviamente dentro Gaza, le autorità israeliane non ce l'hanno consentito, ci siamo comunque recati al valico di Rafa perché ci è sembrato importante portare una testimonianza, arrivare fino a lì e sentirci più vicini in qualche modo. Gli stessi testimoni sopravvissuti ci hanno detto: noi siamo qui in Egitto, ma il nostro corpo è qui, noi siamo a Gaza, quindi volevamo in qualche modo anche noi avvicinarci, far sentire ai gazawi la vicinanza. È stato, non so come dirvelo, da un lato è stato importante credo per tutti quelli che hanno composto la delegazione, allo stesso tempo molto doloroso e frustrante, perché avvicinarsi ma poi non poter entrare, avvicinarsi e sentire le bombe. Noi quando siamo stati ad Al-Arish la notte precedente non abbiamo dormito, perché ogni 3 minuti, 4 minuti c'era un'esplosione fortissima e si sentiva a 40 km di distanza benissimo, e ci tremavano porte e finestre in albergo, quindi si sentiva costantemente questa colonna sonora terrificante. Quando siamo arrivati vicino al valico si aggiunge anche i droni, con questo rumore costante che non ti lascia mai, questo ronzio nell'orecchio. Arrivati al valico, appunto, ovviamente l'esercito egiziano non ci poteva far passare, non avendo l'autorizzazione ad entrare, abbiamo fatto una dimostrazione, ma soprattutto abbiamo potuto visitare a qualche chilometro di distanza, grazie alla mezza luna rossa egiziana, tutti i magazzini in cui sono stoccati gli aiuti umanitari che non riescono a entrare, e vi assicuro che questa è stata forse la cosa più impressionante, perché ci sono 80.000 metri quadrati di roba che sta andando a male, ovviamente, perché ci sono c'è di tutto, dalle derrate alimentari ovviamente a materiali di altro tipo, ma come sappiamo dal 2 marzo non è entrato più niente a Gaza. Ora, ieri appunto, pare che siano entrati questi primi camion, però dalle informazioni che ho avuto anche stamani parlando con persone che sono dentro, ancora non si è riusciti a distribuirli questi aiuti alla popolazione civile, quindi siamo anche qui, è una, diciamo, per ora un finto, diciamo, sollievo. Poi in ovviamente 100 camion sono niente dopo più di 2 mesi di blocco totale, considerato che prima ne entravano 500-600 al giorno, era il minimo, considerato il minimo necessario. Questi magazzini, se vi devo dire, una delle cose, a parte vi potete immaginare nel Sinai, dove già ora sotto il sole ci sono 40 gradi a maggio, cioè la tenuta, no? Quindi fatto che chiaramente rapidamente si deteriorano. Ci sono delle tende frigo, diciamo, per i medicinali, per l'insulina, per i vaccini, però anche lì non è facile con i generatori, ovviamente, quindi anche la Mezzaluna Rossa ci ha detto di essere in grave difficoltà a mantenere questi magazzini pieni di roba che non entra. Una delle cose che ci ha colpito di più è ci hanno fatto vedere questo enorme tondone con oggetti rifiutati da Israele quando ancora entravano alcuni camion. E questo è veramente una cosa impressionante, perché dà la misura dell'arbitrarietà totale con cui venivano respinti gli aiuti. Cioè, tra gli oggetti respinti voi potete trovare le stampelle, le sedie a rotelle. Perché? Perché ci sono delle componenti metalliche e queste potrebbero essere utilizzate per creare delle armi. Trovate il saccappello verde militare, perché è verde militare, quindi potrebbe essere camouflage, potrebbe essere utilizzato. Trovate tutto ciò che ha pannelli solari. Cioè, è veramente incredibile la, ripeto, totale arbitrarietà e, siccome sono giurista, totale illegalità del comportamento israeliano anche da questo punto di vista. Cioè, non soltanto questo che è più ovvio, insomma, è ovvio che il diritto vieta il bombardamento indiscriminato, che il diritto vieta di colpire gli ospedali, che il diritto vieta di colpire le strutture sanitarie e via dicendo, ma vieta anche di bloccare in questa maniera l'assistenza umanitaria. Cioè, è del tutto arbitrario, anzi, la potenza occupante, Israele, ha l'obbligo di garantire che entrino gli aiuti umanitari, che raggiungano la popolazione civile, e avrebbe l'obbligo di tutelare anche gli operatori umanitari che garantiscono la distribuzione degli aiuti. Quindi siamo in un quadro di totale disprezzo delle regole, uso proprio questa parola, totale disprezzo delle regole, perché non è soltanto violazione, qui c'è calpestare qualsiasi regola e qualsiasi barlume di umanità, ovviamente, ma veramente qualsiasi regola giuridica. Voglio dire un'ultima cosa, perché appunto non voglio parlare solo io, poi magari vediamo se ci sono le domande, eccetera, ma me la sono portata da leggere, perché nonostante questo tanti palestinesi credono nel diritto, ci credono nel diritto internazionale, nella giustizia, come diceva Omar, e ci hanno chiesto di fare di tutto per farlo valere. Cioè, io vi dico, e per me questa è una cosa veramente che mi commuove profondamente, perché appunto abbiamo incontrato anche giuristi, tanti, abbiamo incontrato, per me un amico, insomma, Raci Surani, che è il direttore del Palestinian Center for Human Rights in Gaza, che ci ha lasciato con queste parole, ve le leggo per non sbagliarmi. Con la Convenzione contro il genocidio il mondo aveva detto mai più, e questo deve valere anche per i palestinesi. I palestinesi non sono un'eccezione, i palestinesi hanno diritto alla dignità, ai diritti umani e alla giustizia. Non accetteranno mai la deportazione, nonostante il livello di brutalità di Israele sia sempre più alto. I palestinesi non si arrenderanno e non perderanno l'ottimismo strategico. Non permetteremo che Gaza diventi la tomba del diritto internazionale. بطلقة في الرأس في رأس فلسطين وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين غافلها القناص بطلقة في الرأس في رأس سارة الصغير غافلها القناص بطلقة في الرأس في رأس سارة الصغير Chiudiamo la trasmissione di oggi con l'appello di Luisa Morgantini davanti a Montecitorio con la delegazione italiana tornata dal valico di Rafah. E questa era la nostra ultima notizia e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime trasmissioni sempre alle 17.30 sempre su Radio Wombat. Inshallah. Estremamente importante che oggi voi siate qui, noi siamo qui insieme ai parlamentari, alla società civile, ai giornalisti che non solo sono andati a Rafah in questi giorni, ma che in tutto questo tempo hanno cercato di rendere la stampa meno asservita al potere, giornalisti che hanno il coraggio di dire la verità e di raccontare i fatti. E insieme a parlamentari, perché basta con questo qualunquismo che tutti sono uguali. Non è vero, non è vero. Bisogna cominciare a dire che ci sono parlamentari che da tempo chiedono basta, basta genocidio, basta uccidere, basta affamare, assetare le persone. Davanti a Rafah noi abbiamo sentito le bombe, ma il nostro cuore era con quei bambini, quelle donne, quegli uomini che vogliono solo vivere in pace, che vogliono acqua, che vogliono pane e invece noi mandiamo bombe e armi. Siamo stati a Rafah per dire della complicità del nostro governo, dell'Unione Europea, dei paesi arabi e di tutti quanti non dicono apertamente che il popolo palestinese deve essere libero e autodeterminato. Non possiamo sempre tutelare i palestinesi. Loro hanno sapienza, coraggio e dignità e noi dobbiamo mostrare la stessa. E oggi siamo qui per dire una vergogna che il nostro paese insieme alla Germania abbia votato un contro, non sanzioni, ma sospensione dell'accordo di associazione, che è un dovere dell'Europa rispettare, perché l'articolo 2 dice se non rispettate i diritti umani, questo accordo deve essere sospeso. Grazie di essere qui, dobbiamo essere brevi, ma vi adoro. E credo davvero che i nostri parlamentari, i giornalisti e noi insieme dobbiamo continuare questo percorso. Loro dentro il Parlamento, noi fuori, non solo nelle piazze, ma chiedere ai municipi che la stessa mozione, che probabilmente per la vergogna della nostra maggioranza forse non passerà, ma che questa mozione sia presentata in tutti i municipi, ovunque. Non vendere armi a Israele, basta complicità. Noi siamo per l'umanità e per la vita e la giustizia per tutti e tutte. Bravo. Bravo. Now stop, go, John, stop, go, John, John, John. Now stop, go, John.